Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Ogni pianta è una lampada, il profumo è la luce. Victor Hugo. Buona domenica anche da parte mia, ben trovate al Giardino Segreto. Primo giorno di marzo, il mese che ci porterà la primavera. È il momento che aspettavamo, quello in cui davvero in ogni casa di città non possono mancare le piante. Sono troppi i benefici che ci regalano da tutti i punti di vista. Quelle aromatiche poi donano benessere anche solo attraverso il loro profumo e sono i profumi che oggi portiamo sul nostro balcone di città attraverso le aromatiche officinali. Sto parlando di piante stranote che tutti più o meno in questa stagione mettiamo sul davanzale, salvia, rosmarino, timo, le usiamo nei piatti, ma non immaginate quante virtù possiedono queste aromatiche che siamo abituati ad usare solo per insaporire il cibo. Alcune sono antisettiche, antinfiammatorie, altre riescono a combattere l'ansia. Entriamo nel mondo di queste piante notissime, eppure ancora poco conosciute, con una botanica che di cure e rimedi vegetali ne sa parecchio. E sto parlando di Laura Cornara, professoressa all'Università di Genova, al Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita. Ben trovata al Giardino Segreto. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, buona domenica. La sua qualifica già ci mette il buon umore, ma so che lei si occupa anche, tra le altre cose, di piante officinali, di piante aromatiche, di piante che fanno bene all'uomo. Sì, sì, conduciamo degli studi di etnobotanica, c'è un'antica tradizione a Genova, per cui diciamo è nata un po' l'etnobotanica italiana a Genova con la professoressa Gastaldo, che era una docente di farmacia e che ha dato il via a questi studi, per cui andiamo a intervistare persone anziane e recuperiamo usi tradizionali di piante medicinali che anche alimentari, quindi antiche ricette, piante usate per curare gli animali o anche, non so, per esempio a scopo rituale. Che fascino! Molto bella, sì. Quindi, insomma, si attinge al passato. Lo scopo principe della ricerca etnobotanica è sempre stata quella di scoprire piante che vengono usate tradizionalmente per qualche motivo e verificare se c'è un, come dire, accordo tra gli utilizzatori sul fatto che una data specie fa bene per curare una data patologia. Quindi questo, quando viene in qualche modo confermato dai dati anche statistici, porta a individuare piante che vale la pena di approfondire dal punto di vista fitochimico in laboratorio e poi con degli esperimenti sia in vitro che eventualmente in vivo, per esempio su cellule in cultura, che confermano questi effetti benefici delle piante. Questo soprattutto è molto importante laddove non è ancora arrivata la grossa industrializzazione, come le dicevo, per cui per esempio ricerche di questo tipo condotte, che so io, in Centro Africa, in Amazzonia, in alcune zone per esempio del Nepal, del Tibet, della Cina, cioè laddove ci sono popolazioni che ancora vivono abbastanza lontane dai centri abitati e che quindi da secoli sanno come curarsi con metodi naturali. Quindi facendo questo noi andiamo a recuperare delle informazioni che poi possiamo in qualche modo usare per approfondire la ricerca scientifica su una data pianta che potrebbe dare origine a un nuovo farmaco importante. E in questo momento su che piante state lavorando? In questo momento stiamo lavorando su diverse tipologie di piante, ma anche stiamo lavorando anche sull'olio essenziale di alcune piante che vengono usate tradizionalmente come sedativi, come per le loro proprietà sul sistema nervoso, che sono alcune valerianacee. In realtà, siccome i botanici amano complicarsi la vita, cambiano sempre il nome alle piante, alle famiglie, eccetera, per cui in realtà adesso non sono più chiamate valerianacee, ma insomma, tanto per dare l'idea, per esempio la nostra Valeriana officinalis. Lei ha citato l'olio essenziale, devo dire che in questi giorni un po' di incertezza, un po' di ansia, eccetera, io ho portato un olio essenziale alla lavanda in redazione, la mia collega al ginepro, e soltanto usandolo, mettendolo un po' sulle mani, ci dà il buon umore, devo dire che ha portato bene all'intera redazione. Cosa ne dice? Certo. Ma dico che fate bene, non bisogna esagerare, perché gli oli essenziali hanno comunque sempre qualche effetto aspetto che può essere, diciamo, non proprio piacevole, perché in alcuni casi, se si usano in maniera eccessiva, possono anche essere un po' irritanti, oppure alcuni oli essenziali possono dare una reazione di fotosensibilizzazione. Se uno si dà l'olio essenziale sulla pelle e poi si espone al sole, in alcuni casi possono formarsi delle macchie scure. Quindi ecco, bisogna tenere presente che ci sono sempre dei piccoli accorgimenti, però in linea di massima quasi tutti gli oli essenziali delle piante aromatiche hanno un elevatissimo potere antibatterico, antifungino, antimicrobico in generale, e quindi sono eccezionali come antisettici per disinfettare. Quindi, visto che la mucchina è andata a ruba e non se ne trova più, va benissimo magari una soluzione con qualche goccia di olio essenziale per sciacquarsi le mani. Vede quante virtù ha. A noi bastava il profumo, devo dire la verità. Certo, perché molte di queste piante hanno anche, diciamo, tra gli oli essenziali dei composti che vanno proprio ad agire sul sistema nervoso, e quindi anche l'inalazione di queste sostanze può, per esempio, favorire uno stato di rilassamento e quindi mettere di buon umore. Ecco, e qui si basa anche su questo il concetto dell'aromaterapia, in gran parte, per intenderci, no? Che adesso è abbastanza moderno. Quindi bisogna naturalmente affidarsi alla scienza, alla medicina, quanto si parla di piante, sì, andare in erboristeria, affidarsi ai consigli di persone come lei. Però ecco, diciamo che semplicemente il profumo ci può dare benessere, ci può togliere l'ansia, perché le piante in qualche modo fanno bene. Me ne sono accorta portando a casa, visto che ormai è marzo, il primo vasetto di basilico, di timo, di rosmarino, di menta, e basta metterci dentro il naso, inalare questi profumi che ci fanno stare bene. Certo, certo. Poi in realtà, appunto, il rosmarino, queste piante, oltre che avere delle virtù aromatizzanti, per cui noi le usiamo quotidianamente in cucina per insaporire e aromatizzare i cibi, in realtà i loro oli essenziali, composti fenolici, tutti i composti che sono contenuti all'interno, hanno anche potere antiossidante, quindi favoriscono il benessere del corpo, che risponde bene ai vari tipi di stress a cui siamo sempre sottoposti, e hanno le proprietà digestive, quindi favoriscono per esempio l'eliminazione dei gas dallo stomaco e dall'intestino, che è quella che tecnicamente si dice una proprietà carminativa, oppure stomachica, nel senso che favorisce la funzione digestiva. Quindi favoriscono la digestione. Infatti noi spesso, senza rendercene conto, usiamo questi aromi, queste piante aromatiche per condire, non so, la selvaggina, la carne, dei piatti un pochino più consistenti, no? Che magari sono un pochino più difficili da digerire. Pensiamo soltanto di arricchirli di profumi e in realtà li rendiamo più digeribili. Sì. Sì, sì. Poi altre caratteristiche interessanti sono il fatto che hanno anche molte proprietà cosmetiche, quindi si possono usare anche nei cosmetici, sia per la pelle che per la cura dei capelli. Allora, dottoressa, andiamo per ordine. Portiamo in città, come noi facciamo sempre qui al Giardino Segreto, un po' di verde, un po' di piante, un po' di natura, e oggi in particolare portiamoci sul balcone un po' di profumi, perché è il momento di farlo. Parliamo di piante comunissime che vediamo dappertutto, ma di cui secondo me davvero non conosciamo tutti i benefici. Possiamo partire dalla salvia. La usiamo con burro, ravioli e salvia, per dire, no? Per aromatizzare. Ma la salvia è da sempre considerata in qualche modo una pianta salvifica, fin dagli antichi. Sì, una pianta che aiuta, che in qualche modo era considerata già dai medici, dalle medichesse, diciamo, dell'antica scuola medica salernitana, un'erba miracolosa, la salvia, perché in qualche modo confortava il sistema nervoso, quindi si riteneva addirittura che potesse essere usata come antidoto contro alcuni veleni. Diciamo, siamo in epoca, stiamo parlando del 1000, quindi di epoche antiche, molto antiche, però si diceva che non poteva morire chi aveva un cespuglio di salvia in giardino. Esatto, quindi era, diciamo, che il profumo di questa pianta, il suo aroma, le sue virtù benefiche erano anche circondate da una sorta di magia, ecco, di idea che combattesse anche effetti negativi, effetti non soltanto sulla salute ma anche sullo spirito, anche alcuni aspetti negativi che della vita potevano essere in qualche modo migliorati da questa pianta che aveva queste proprietà miracolose, ecco. Poi si pensava curasse le morsi del serpente, dalla tosse, sì, aumentasse, sì, la fertilità, prevenisse le malattie infettive. Insomma, pensiamoci quando guardiamo il nostro vasetto di salvia, dal quale, ricordiamolo sempre, possiamo staccare una foglia e farci una bella pulizia dei denti. Da bambini lo si faceva sempre. Chissà se i bambini lo sanno ancora, quelli di città. Sì, ma di città non lo so, in campagna senz'altro, perché in realtà è appunto, questo si ricollega al discorso che facevamo prima, cioè che la salvia ha proprietà leggermente astringenti, ma soprattutto antisettiche, quindi che combattono le infezioni, quindi è anche molto utile per la pulizia e l'igiene della bocca, dei denti, eccetera. Infatti questa abitudine di strofinarsi i denti con la salvia, come dicevamo prima, è una cosa che viene tramandata da generazione in generazione, ha le sue fondamenta in un motivo reale, ecco, insomma, ci sono degli oli essenziali, delle sostanze che hanno dotate di questa capacità antisettica, quindi di combattere. Quindi ricordiamocelo quando aggiungiamo le nostre foglie di salvia ai nostri piatti e anche quando la vediamo sul balcone, annusiamola. E poi naturalmente la salvia può avere davvero diversi usi, per cui in erboristeria possiamo anche chiederne, no? Sì, sì, sono anche stati fatti studi più recenti che stanno appunto approfondendo anche la capacità della salvia di avere un'azione ipoglicemizzante, quindi di ridurre il tasso glicemico nel sangue. Questo è una cosa molto importante perché, come ben sa, il problema dei diabetici è sempre in continuo aumento, soprattutto tra la popolazione anziana, e quindi insomma, effettivamente certe volte queste piante che noi inseriamo così quasi per moda, quasi per abitudine nei nostri alimenti, in realtà poi ci fanno molto bene, ecco. Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già creata. Albert Einstein. Fermiamo un istante adesso, ma la professoressa Cornara resta con noi, perché se la salvia per gli antichi era la pianta della salute, non potete immaginare i poteri del timo. Ne parliamo tra poco. Il giardino segreto. La natura non fa nulla invano. Aristotele. Persino il profumo che le piante, in particolare le aromatiche, emettono ha uno scopo ben preciso, anzi ben più di uno. Lo vedremo tra poco con la nostra esperta, la botanica Laura Cornara, professoressa all'Università di Genova al Dipartimento di Scienza della Terra, dell'Ambiente e della Vita. Con lei stiamo parlando dei benefici che portano alla nostra psiche e alla nostra salute anche le aromatiche comunissime che più o meno tutti abbiamo sul davanzale per insaporire i piatti, come la salvia o il rosmarino, virtù che pochi di noi conoscono. Per esempio, un'altra erba aromatica profumatissima, molto diffusa, è il timo, prezioso non solo in cucina ma anche per le nostre vie respiratorie, mi ha confidato la professoressa Cornara. Sì, il timo, ecco, è molto interessante anche perché ha un'azione piuttosto forte sull'apparato respiratorio, quindi è noto soprattutto per le sue attività espettoranti, quindi per le infezioni catarrali, le mitiga, diciamo, no? Quindi quando uno ha la tosse, per esempio, il timo è ottimo. E si possono anche fare semplicemente i frumenti, per esempio, che è una cosa che giustamente uno raccoglie un po' di rametti e li mette nell'acqua bollente, inala questo profumo e effettivamente, senza magari prendere sciroppi confezionati, ha un miglioramento negli stati di raffreddamento. Ma questa ricetta mi piace moltissimo, quindi possiamo usare il nostro timo senza andare in erboristeria, metterlo in acqua bollente e semplicemente inalarlo. Un po' come si fa anche con le foglie o con i frutti di eucalipto, diciamo. Sono queste piante ricche di oli essenziali che hanno questo effetto effetto espettorante mucolitico, che quindi favoriscono un miglioramento delle condizioni di salute di chi è raffreddato o colpito da malattie da raffreddamento. Ecco, quindi questo è un pochino un fai da te semplice, che naturalmente non basta in caso di influenze, di malattie più conclamate eccetera, ma quando uno ha un po' di raffreddore, un po' di tosse, insomma, può anche utilizzare la pianta che ha sul balcone per avere un po' di beneficio, questo senz'altro. Mi viene da lanciare l'idea di portare un vasetto di timo negli uffici, sulle scrivanie, così, soltanto per propagarne il profumo. Profumo. A proposito di profumo, parliamo del mio olio essenziale, quello la lavanda. Ah, la lavanda, sì. La lavanda, anche lei, è una pianta ricca di oli essenziali. Tutte queste piante di cui stiamo parlando fanno parte della famiglia delle lamiacee o labiate, che sono tutte piante che hanno il fiore con un labbro superiore e un labbro inferiore, quindi da qui viene fuori questo nome delle labiate, che poi è diventato lamiacee, prendendo ad esempio il genere più famoso della famiglia, che è il genere Lamium. Comunque sono tutte piante che hanno questi oli essenziali racchiusi dentro delle piccolissime ghiandoline sferoidali che sono nelle foglie. Infatti, quando noi tocchiamo queste foglie, senza saperlo, rompiamo questa sottile pellicina della capocchietta di questo pelo, questa piccola cuticola, ed ecco che si sprigiona il profumo e ci rimane sulle dita, per esempio, se abbiamo sfregato una foglia, no? Ma un profumo che poi può durare anni una volta seccate i rametti di lavanda. Come fa a avere questa potenza? Come fa a durare nel tempo? Viene conservato dentro a queste ampolle. Lei immagini, adesso purtroppo essendo in radio non possiamo farle vedere, ma lei immagini migliaia di piccolissime ampolle piene di un olio che rimane, finché io non rompo, non sfrego, rimane conservato dentro questa piccola micro ampolla, e ce ne sono centinaia e migliaia sulle foglie. Per cui, perché queste lamiacee si prendono la briga di produrre tutto questo profumo? Sarà un gran lavoro. Certo, ma allora nella realtà i motivi fondamentali sono almeno due, se non tre. Uno, che la pianta produce questi oli per avere un'interazione col mondo esterno, quindi non è vero che le piante non comunicano, in qualche modo comunicano, perché mandano questi messaggi chimici all'esterno, per esempio per attrarre gli impollinatori e quindi propagare la specie. Quindi obiettivo riproduzione. Poi non solo, perché molti di questi oli essenziali sono anche attivi come insetticidi, cioè se per esempio l'olio essenziale dei fiori ha una certa composizione che attira l'impollinatore, quello delle foglie può avere una composizione leggermente diversa o una percentuale diversa di alcuni dei terpeni presenti, dei composti presenti, che invece dissuade l'insetto fitofago, cioè quello che normalmente va lì per mangiarsi la foglia o per deporre le sue uova nella foglia. Poi c'è un'altra ancora cosa interessante che vale la pena di dire parlando di aromatiche, è che spesso c'è un fenomeno che si chiama allelopatia, per cui l'olio essenziale che una pianta sprigiona all'esterno e poi ricade lentamente al suolo, a terra, tende a inibire la germinazione di semi di piante circostanti. Cioè praticamente la pianta si protegge il suo ambiente, evitiamo che mi crescano degli infestanti intorno, che mi rubino lo spazio, l'acqua, i nutrienti. E quindi c'è anche un fenomeno di questo tipo, per cui effettivamente noi pensiamo che questi profumi siano soltanto tanto per far piacere a noi, ma in realtà la pianta ha molti motivi per produrli. Certo, in fondo l'uomo non è al centro del mondo come pensa. Sì, già la stessa presenza di piante intorno a noi, sul balcone, in casa, eccetera, è fonte di gioia e di rilassatezza, perché lo stesso colore verde, diciamo, ha un potere sulle nostre emozioni e ci rilassa. E poi comunque l'idea di vedere i fiori, di seguire l'andamento durante la stagione, quando la pianta va a fiore, quando la pianta viene visitata dagli insetti, arrivano le api sui nostri balconi, è tutta una bellezza, no? Perché si ha un contatto più diretto con la natura in qualche modo rispetto a una casa priva di qualunque pianta, ecco. Comunque, no, a proposito di questi usi anche dei cosmetici, volevo ricordare che alcune di queste piante erano già abbastanza famose nell'antichità, perché per esempio il rosmarino, per dire, è una pianta che era considerata un toccasana, che aiutava a ringiovanire, no? Tant'è vero che la famosa acqua della regina d'Ungheria era stata preparata con una ricetta segreta che qualcuno pensa sia stata ideata per la prima volta proprio dalla regina Elisabetta d'Ungheria verso il 1370 o giù di lì, per mantenersi giovane, tant'è vero che lei aveva oltre 70 anni all'epoca e usando quest'acqua della regina riuscì a rimanere giovanile molto a lungo, e quindi era come dire una prova vivente dell'effetto di quest'acqua che conteneva soprattutto rosmarino. Veniva fatta con, era una specie di cosmetico che però all'epoca si usava anche come tonico, che si dava sulla pelle, si faceva il bagno con quest'acqua mettendo l'acqua della regina, e divenne uno dei rimedi più in voga alla corte di Luigi XIV. Viene da pensare che domenica prossima molte signore si aspetteranno cespugli di rosmarino al posto delle mimose, o no? Potrebbe anche essere un regalo originale. Tra l'altro questa poi pare sia stata preparata segretamente dai frati cappuccini, sempre quelli che erano alla corte di Luigi XIV. Che ne sapevano, e i frati ne sapevano. Questo è a questo che volevo arrivare, che diciamo dal Medioevo in poi la conoscenza di queste piante aromatiche, di queste piante officinali, divenne un pochino quasi esclusiva dei conventi e dei vari ordini di frati, perché era lì che avevano il famoso giardino dei semplici, e con semplici si intendeva proprio i semplici rimedi, cioè queste piante che venivano coltivate, che potevano essere utilizzate per preparare rimedi vari che usavano i frati stessi, ma che poi erano a disposizione del popolo che non aveva all'epoca farmacie e ospedali, e quindi si rivolgeva alla spezieria del monastero. Che per forza, anche perché se qualcun altro usava, no? Cioè le donne che usavano erbe nel Medioevo non sono finite benissimo, purtroppo. Esatto. E un'altra pianta, sempre di questo gruppo di aromatiche, che divenne famosa questa volta per una ricetta dei frati carmelitani scalzi, è la melissa. La melissa è un'altra pianta aromatica che possiamo tenere sui nostri balconi, e quest'acqua di melissa deriva da un'antichissima ricetta dei frati carmelitani attorno al 1700, e effettivamente sfrutta anche qui la presenza di questi principi attivi, soprattutto dell'olio essenziale, nelle parti aeree, quindi foglie e fiori, e poi ha questo profumo di limone molto piacevole, per cui è molto bella anche da tenere sul balcone. Diciamo. Questa era molto usata per problemi nervosi, quindi anche questa, messa anche qualche goccia sul fazzoletto inalata così, semplicemente favoriva il sistema nervoso, quindi veniva usata quando si è, non so, all'epoca svenimenti, capogiri, oppure oggigiorno anche consigliata quando si va in viaggio e si soffre di mal di mare o di mal d'aereo, per esempio. Vedi quante virtù può avere una pianta che si può comprare al supermercato e portarci sul balcone o sul terrazzo, la melissa. Sì, noi adesso ci tenevo a dire questo perché noi qui a Genova abbiamo un'antica farmacia dei frati carmelitani scalzi, dove ancora oggi fanno una serie di preparazioni erboristiche che sono ancora in parte basate sulle antiche ricette del 1650, più o meno la nostra farmacia qui a Genova risale a quell'epoca, hanno ancora il giardino dei semplici all'interno, anche se ormai non coltivano più le piante perché, come dicevamo, ormai tutto deve essere controllato, standardizzato, e quindi il fai da te non è più consigliato, e anche per queste cose loro stessi si rivolgono a delle case erboristiche che producono e vendono erbe medicinali. Beh, la sicurezza sicurezza e la salute prima di tutto, anche se ahimè ne perde un po' la poesia, diciamo. Ma questo non ci impedisce di coltivare le nostre aromatiche in casa e anche in città. Potremmo continuare a lungo, ma purtroppo il tempo è quello che è. Io voglio informare gli ascoltatori che la dottoressa Laura Cornara è una delle autrici di un libro dal titolo Come fare cure e rimedi vegetali, e l'editrice è Sistemi Editoriali. Sì, esatto, sì, è un libro abbastanza divulgativo, chiaramente, perché è indirizzato un po' a tutti, quindi anche a chi non ha nessuna nozione di botanica, per cui chiaramente è molto divulgativo, però è piacevole, racconta un po' la storia del giardino dei semplici, dell'etnobotanica, della fitoterapia, che cosa si intende per fitoterapia, quali sono le varie preparazioni, tisane, decotti, macerati, eccetera. E poi ci sono un po' di schede di piante, ripeto, alcune sono piante della nostra flora, spontanee del nostro territorio, altre sono anche piante esotiche che però vengono molto usate adesso anche come rimedi o come integratori, non so, per esempio il cranberry, che è il mirtillo canadese, che ora va molto di moda e che fa molto bene per le sue azioni diuretiche, e quindi anche lui dotato di proprietà antisettiche per chi ha problemi di prostatite o cistite, eccetera. L'echinacea, che è una pianta originaria del Nord America, che poi ha avuto un successo strepitoso, portata qui dai coloni, di ritorno dalle colonie, ed è molto apprezzata in Nord Europa, in Germania, in Austria, coltivatissima, e dalla radice di questa pianta si ottengono degli estratti con poteri sul sistema immunitario piuttosto forti, per cui aiuta le difese immunitarie, combatte mal di gola, malattie del raffreddamento, insomma abbiamo... Dottoressa Cornara, ne avremmo per altre 100 puntate, le assicuro che la chiamerò ancora. Grazie a Laura Cornara per essere stata al Giardino Segreto. Si immagini, arrivederci allora, salve. Se accanto alla biblioteca avrai l'orto, non ti mancherà nulla. Marco Tullio Cicerone. È tutto per questo appuntamento del Giardino Segreto, che torna ogni domenica a metà pomeriggio alle 15.30 su Radio 24. Potete però ascoltare questa e tutte le puntate precedenti anche cliccando su www.radio24.it e cercando tra i programmi il Giardino Segreto. Grazie a Filippo Aureggi, che ha curato la regia, da Roberta Pellegatta. Una buona settimana green.